Ciao Massimiliano, ciao, fai bene che te ne vai, gatta, così almeno non parli con questi energumeni, tutti cuocuomani sono intanto. Facciamo una chiamata, vediamo se risponde qualcuno, aumentiamo la potenza. Mamma mia. Ui, ui, ui, ui. Devo cambiare scala perché questa non basta più a spazio. Attenzione, centro nord sud Italia, ascoltate l'isola piana, cambio. Buongiorno a lei, con chi abbiamo l'onore di parlare qua all'isola piana? Non ho capito, buongiorno. Ma giustamente mette la bottezza di nascondere in tutti. Qua all'isola piana, attenzione, centro nord sud Italia, dall'isola piana, cambio. Ah, io entriamo e gli facciamo lo scandalo, vedete se se ne vanno. Aspetta, c'è Claudio in mano. Ma io lo so, già non sono sentito. Cazzo di erba. Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Cosa gli ha detto Tedeschi? Spaventato se. No, manco accordato. 1-150, 1-2 PFP. Sì, gli piace proprio 10, eh. Tu conta che i tedeschi hanno 80 canali legali. Noi 40, loro ne hanno 80, di cui 40 sotto solo in FM. Però gli piace 10 a loro, capito? Per rompere le balle a noi. Vabbè, lascia rompere le balle. Io poi le faccio due passaggini di quelli alla Marlon Brando, vedi, bacio macchini. E poi diventi tutto gonfio. Sembra molto pompa. Com'è? Alice è imbriaco. Magari, no, via. Stavo guardando Marco, quella frequenza dei 9, 10, 11, in pratica 9, 10, 11 si possono usare, appartiene al PMR normale, l'unica cosa che non si possono usare sono punti radio, basta, poi dall'11 poi la frequenza è totalmente diversa. Si può usare, si può, in pratica è PMR e DMR, tutte e due le fasi. Stavo guardando poco fa come si chiama su Google, le frequenze meno sottolineate, e quindi già ci sono, pensavo io, mi sembrava strano che questi parlavano per i fatti suoi in tre canali, quando ho detto che ce ne sono 16 in teoria, in tutto. Andrà bene Mera. Bene, ti arrivo Antone con le 920. E la voglia. Il segnale ce n'è il segnale. Prova. Guarda a vedere, a 30 ci arriva, a 30. Quasi a 30, sì. 9,25. Sì, già va bene, via. La voglia già va bene, ci mancherebbe. A Roberto le arrivo 9,40. Beh, Roberto è più aperto per te, per me si è chiuso qui, lo sai, no? Io ho la collinetta, sono stato sulla alberghiera tra Vecchio e Pazzo, lì dove c'è Mario Manca. Se avete pensato l'antenna di lì dove c'è Mario Manca, si sarebbe arrivato a 9,40 come minimo, 9,60, perché lì è alto. Il tempo c'è 9,30, mi Antone, non è che cambia niente, 28,30, dai. Io ho la collinetta qua, capito? Il discorso è quello. Ho stato alto quanto c'è più su, in pratica, abitare. Dove c'è quella palazzina, dove c'era il supermercato prima, lì mi sarebbe bastato, ti posso dire, se metti in palo e sei stato proprio a livello del corso. Alla fine di via Milano, in pratica, ma purtroppo mi sono più giù, hai capito? Non ci posso fare niente. È la zona dove sono io che è proprio strana, capito? Poi mi hanno fatto queste palazzine di fronte, queste nel fianco, mi hanno tappato la zona di sorso, quello che hanno fatto proprio a fianco a me, che mi coprono tutto il quadrato. Vabbè, dai, fate girare, sono profetta, vieni avanti, cambio. Ciao, ciao Antonio. Sento ancora sotto. E niente, boh, quindi, allora, Massimiliano è andato a fare le matracche a 45. Siamo io, Marco Natalino, Claudio, Antonello e poi boh. Sì, dimmi Marco. Se uno mette una mezz'onda bassa su una villetta zona bancaria, anzi prima, più verso Sassari, arriva a Sassari secondo te, una mezz'onda? Io credo che arriva. Alla grande arriva, anche bancari. Ma è stato... è una buona zona per Sassari, anche per fuori Sassari. Ma ti avevo spiegato la campagna dov'era, no? Era un fosso, molto molto infossata, perché tu vai, fai il discesone per Bancali, c'è quella farmacia a sinistra, no? Poi se tu fai il curvone a destra vai a Bancali, invece se prendi quella strada a sinistra c'è un piccolo budello e poi trovi le villette, si chiama Tignoni la zona, non è proprio Bancali, ma è molto infossata per Sassari. E mi chiedevo sempre usi futuri, emergenze nazionali, guerre, tocchiamoci le palle, se una mezz'onda volgare messa anche bassa sarebbe arrivata a Sassari. Una prova che avrei voluto fare, vabbè, sì, dovrebbe arrivare vicino, però sai, è molto, molto infossato. Avevo fatto una prova io in macchina e c'era un'attenuazione del segnale in macchina tremendo. No, per me già funziona, è anche bene. Buono sapersi, dai, vabbè. Ok, riprendete, vai Gianni. Eia, oi. Dunque, Zara, cosa stavamo dicendo? Adesso mi sono un po' perso. Vabbè. Mezz'onda ai tedeschi sotto, non me la metto, comunque, avanti Antonello. Aspetta un attimo, devo chiudere, dai, ci sentiamo più tardi, che devo fare una cosa. Ehi Antonello, ci sentiamo dopo, dai. E io un minutino, ti lascio con Antonello, Marco, un minutino che devo tagliare della roba, che devo preparare e mettere al forno, ci sentiamo tra un attimo. Ehi, ciao Natalino, dai, ci si aggiorna. Ciao Natalino, ci sentiamo, alle prossime. Ciao Claudio, buona... all'ospita, cazzo, se fai l'ospita, quanto ragazzo? Ne esci, cazzo, sciolto, cazzo, all'ospita anche tu esci. Meglio verso le 7:30 alle 8, che adesso. Avanti Gianni. Ehi, ehi, calato, c'è un po' di arietta, però è calato tutto adesso. Me ne accorgo dalle tende delle finestre, sono praticamente immobili. Stamattina stava bene, alle 5:30-6 di mattina. Un umido, un freddo che non te lo dico nulla. Verso le 5:15, una cosa del genere. C'era tutta la finestra tutta bagnata dall'umidità che c'era, tipo vapore e acqua, immaginati tu. Stamattina, ma perché si è sistemato verso le 9:30, una cosa del genere, si è asciugato un po' tutto. Ma stamattina c'era un freddo, ragazzi. Sì, ieri notte siamo tornati un po' tardi, c'era Piazzale Segni tutto nebbia. Figurati, io mi sono andato verso le 5:30, la verità, poi sono uscito fuori, e poi ho tornato in freddo, ho preso la finestra, la porta per uscire il cane a pisciare, mi stavo cagando, sono tagliabiliato, ho fatto colazione e poi mi sono messo nuovo a letto. Poi mi sono coricato e mi sono addormentato di nuovo per un paio d'ore, così sono uscita, ma era un freddo stamattina, ma un freddo, c'era 13 gradi come minimo. Ebbene, avanti. Buonasera. Buonasera Antonio, il bai Gianni. Milloin. Cianto. Ehi, ciao, buonasera. E allora, che con 5 watt mi sentite? E ci lo stesso con 5 watt, non cambia niente. Sono anch'io con... No, io sono con 10, la verità, appena acceso. No, io sono proprio 5, basso sono. Ha voglia tu, sempre 9 qua. 9, vabbè, è molto indicativo come smitter, però già andava in città, non c'è problema. Sai che avevamo provato con 100 milliwatt, avevamo usato un watt più il riduttore di potenza della ZG, 100 milliwatt ci sentivamo in tutta Sassari. E quando questo, Marco? E qualche annetto fa, quando l'avevo preso, riduttore di potenza ZG, come si chiama? RP6 mi pare, RP6, una cosa del genere, sembra un watt metro, tu c'è la manopola, più gira a sinistra più attenua, ti porta la potenza un decimo. Ah, oggi ho preso, hai visto, con super, con quasi nulla praticamente. Sì, poi la prova, vabbè, fatta forse in inverno, non c'era propagazione, ma per dire, noi mettiamo 4 watt, 5 watt, 10, 20, 30, 600, ma in realtà in città ne basterebbero 500 milliwatt in antenna esterna, sul tetto, dico. Va bene, i watt che sono dichiarati, 5 watt, 4 watt, vanno bene. Vabbè, se ti vuoi far sentire un po', allora ne mettiamo di più. Sì, infatti, ma sbaglio, si sono calmati i tedeschi appena. Boh, tedeschi c'erano. Ehi, è una banda laterale. Beh, mi sa che si sono spostati, boh, non li sento più. Cazzo, li ha fatti fuggire Claudio. Cosa ha combinato? Ma pure Claudio, eh. Sono qua. Ma è andato a tagliare qualcosa, tipo erba. Ora ha attaccato un lignarone. Stavo usando qualcosa di grosso, tipo con 200 watt. Già lo so, anche quando accendevo il mio, era... Ezzo. E pompava a voce. No, eccoli che li sento sotto i tedeschi. Oh già, ti volevo dire, proprio per questa cosa, oggi stavo per pigliare il tasto acquista, però voglio la mezz'onda senza radiali, io, a titolo così sperimentale, anche per provarla in campagna, per eventuali inasprimenti del conflitto in Ucraina, cosa ne so io, collasso delle reti globali, cellulari, internet, non lo so, non si sa mai. Grazie. E quindi la Venom mezz'onda, giusto? Sì, vorrei qualcosa di più semplice possibile, che abbia le, come si dice, le fascette. E so per cliccare acquisto, poi ho detto vaffanculo, oggi non ne voglia. Mettiti pannelli solari, la batteria c'è a posto. Tu sì, eh. Allora, invece io me ne vado in garage, me ne vado direttamente. Aspetto che bombardino la palazzina, me ne scendo in garage per quello. Poi da lì diciamo tutto qualcosa, faccio il buco piano piano e vado dove c'è il sanatorio Conti, da lì piatto l'antenna, capito, sotto. I Conti? Allora, c'è il bunker antiaereo di Al Conti. Mava! E allora, è nell'angolo proprio dove c'è Sonia. Lì, in quell'angolo lì c'è il bunker dalla tappata, e quindi non faccio altro che bucare sotto la strada e arrivo al Conti. Da lì c'è il bunker, e poi non so da dove diavolo va la verità, perché quando hanno dovuto fare dei lavori di Al Conti, si sta facendo la ruspa dentro. Hai capito, stava buccando con la benna, perché non c'è dentro, bene è tutto. Lui è rimasto in bilico, ha preso che erano i pompieri. Ma non so però c'è il bunker anche aereo. C'è, ce ne sono accorti quando hanno fatto il foro, che c'è sceso la benna all'interno di colpo, lui è rimasto in bilico. E meno male non si è rovesciato. È stato fortunato. Però in pratica non so fin dove scendere quel. Rimane proprio all'angolo della sala, appena esci dal corso, dall'ospedale Conti, rimane all'angolo della strada, scende verso giù, in via Calofrici, però non so dove, fin dove arriva la vetta, a meno che non vada dove c'è la caserma, cosa ne so. In effetti lì ci sono cose militari, ci sono, tipo quel teatro Sarda, mi sembra che era un coso di militari quello, cioè è logico che hanno in bunker, che è un pochettino più su. Sì, vabbè, mi succede come si chiama, vabbè, sono la militare, via Calofrici era prima, quindi non lo so fin dove arriva, comunque sia sì, l'angolo del serratorio è pratica, è come partire da Vele Mancini, scendi giù, arrivi per San Pietro e entri nel primo ospedale che c'è, da lì vai al secondo al terzo e poi ti collega all'ospedale civile nuovo, però non so poi fino dove continua, capito? Perché io me lo ricordo quando ero piccolo, è stato ricoverato lì all'autolino Ringoiatra, e poi si andava a piedi fuori e siamo andati sotto, hai capito, sottoterra, siamo scesi in questa specie di cosa di buche, ma lì ho detto dove stiamo andando, non ti preoccupare, ne faceva, sono andato in cosa, mi sono proprio in barella, da lì fino all'ospedale di San Pietro, ma io ho detto, diciamo siamo all'ospedale di San Pietro, e io ho detto non so. Comunque funziona ancora comunque, quella galleria, quindi funziona ancora, è anche illuminata. Parte da lì sotto, da Vele Mancini fino alla Vele San Pietro. A parte di Piazza Fiume, no? No, Piazza Fiume c'è un'altra, non so se sia collegata allo stesso coso. Comunque c'è anche Piazza Castello, sempre questo, il bunker. Rubieno, Sassari, solo che lo sanno solamente, solo il comune non lo sa dove sono, capito? C'è neanche uno l'ingresso via Lumberto, addirittura uno, all'angolo con via Fancello. Allora ci usavano molto. Beh, infatti. Avanti Marco. Sì, ho parlato a voi, dai. Oh, ciao Marco. Devo uscire, stanchezza, il caldo mi distrugge, devo fare commissioni, poche, in realtà due pizzerie, ma poi ci ho fatto tardi, poi ho cucinato, una cosa che ho mangiato a pranzo, stomaco pieno, ho detto, boh, collassato, non esco più. Mangiare leggero, c'è troppo caldo. Sì, infatti, guarda, ieri notte c'era fresco, c'era veramente fresco. Antonella, eravamo di fronte a Temmi, quella sala giochi. A proposito, l'altra notte un tizio in quella sala giochi ha vinto 850 euro, la bagassa sua. Ah, sai che canna che c'ha. Non ci va quasi mai nessuno, già quello che ha vinto 850 è strano, però. Che aveva avuto tutti questi soldi contanti, quello là. Quasi sempre vuota quella sala giochi. Io non ci sono mai andato, ci sono andato solamente una volta per sbaglio. Ma la seconda volta non ci sono andato, ma ho guardato perché è arrivata la macchina e è stato via il videogioco completo. Più l'altra cosa, si erano caricate in macchina e se ne sono andati. Infatti si è visto, ci sono il cemento armato, i vasetti per i fiori in cemento armato, quindi non può più entrare nessuno in macchina a caricare nulla. Sì, chi c'è che ha fatto? Allora, in regia mi dicono che ne ha investiti 200, cioè giocati 200, vinti 850, quindi praticamente 650 euro di utile, di vincita vera e propria, da, ecco. Allora, ci ha fatto lo sgobbo di padrone, a voglia. Ha giocato però non con le macchinette a monete, in quelle dove, quelle grandi, dove metti le banconote. Sì, ciao Tony, mi hai sentito. Io domani ci sei entrato via a spendere soldi in macchinette. Mi sembra tipo quello che passa alla Kuwait, che ogni tanto a arriva con 50 euro, si compra 50 biglietti e comincia a grattare. Sono 50 biglietti, ne ha azzeccato, mi sembra, solo due. Quindi figurati, 50 biglietti a 5 euro l'uno. Figurati quanto ci ha rimesso. Però questi, cioè, questi qua, ne avrà investito due domani e torna in Kivimi, tricky-track e tricky-track. Non è che ci andano in cucino, sono proprio marate. Beh, attaccare 800 euro, ampaci, cioè buttarci 800 euro così a vincere magari 500-600 è proprio la scimmia, la verità. Io non avrei mai fatto una cosa del genere, evidentemente c'è qualche imprenditore, capito, sai che i soldi alla... a quei poveri cristi che lavorano per lui, prende e si gioca la macchinetta la notte. Avanti Tony, buonasera. E c'è anche, c'è ruota, che non so, sento basso basso, c'è più preparazione che altro. E qual è la sala di gioco? C'è di fronte a te, ma non è. Ehi, quella di fronte a me la sala di gioco, ha detto Marco. Ma non l'aveva chiusa quella lì? Ah, oh, già riaperto, già. Ma c'è poca gente, c'è. Ehi, lui ha colocato in vei, ma... beh, qualche cosa novità, non c'è niente. Nulla, novità c'ho, uia. Per carità. Ma è un caso pura, a come pare ce n'è. Io mi porto in Suzuki a vedere, buonanotte. Mi tengo lo scooter nel buco, cazzo cammina troppo questa notte. ti correvo a scoprire dove sì. Con la moto lì, piegato come sei, mi fa più male che bene alla schiena. Lo so, lo sterzo è un po' basso. Vabbè, c'è la mia luce ormai. Se domani la porto concessionario, io me la metto a disposizione. Ovviamente, qualcosa in più la metteranno loro, eh. Penso di sì, senz'altro. Già se rivale nuova nuova. Chi c'è ruota? C'è Marco e... quindi c'è Marco e mi viene in mente il nome, ho pensato altre cose adesso. Non mi viene in mente il nome, ce l'ho sulla puntata della lingua adesso. Oi, ma quanto ne sai di più? E il profeta pure. Ciao profeta. C'era anche già il profeta, c'era. Ciao Tonino, ben entrato. Ci sono i cartofani sotto in banda laterale. E arriva un forfica. Ma non adesso controllino, come sto scendendo? Io ti ascolto bene. Ce l'ho appena mezzo capottata che. E fate uscire poi del resto, ci va bene. Mi dici l'ore? Ti piglia l'acqua. Vado a pigliare l'acqua, dopo ti viene l'acqua. Vai Anto. Io non riesco a sentirlo. Aspetta, rientro subito un attimino, sto arrivando subito. Anto, c'è anche Antonio. Ma io non lo sento. Non sei stato mio? No, negativo. Io sento le 10 qua. Sto in strano che tu lo senti. No, non lo sento, praticamente è negativo per me. 2-3, poi c'è propagazione, mi sale a 7-8. Proprio 0. Propagazione, c'è propagazione, 9-9-10. Mi sposto un attimo e arrivo subito. Riprendi. Anto. Sicuramente no. C'è anche questo casino, quindi me lo copre. A me mi copre la propagazione. Allora, ringo sciambella. No, ti copre. No, pensavo mi copriva. Io qua lo sento a Tonino adesso. Ma lo senti? Cosa? Aspetta, mi senti tu qua? Sì. Riesci a passare. A me mi senti? Hola. A voglia. Ma Antonio zero, proprio. Cosa ho fatto oggi? Così? No, ho detto tu passi, ma Antonio non lo sento neanche. Ma lei siete coperti. Ma c'è propagazione a Santiago Nuovo, È un casino oggi. Anche poco fa sono passato in banda laterale. C'è il mondo. Dai, continuate, sentiamo dopo, che c'è troppo calore qua. Con tutta questa roba accesa, Tony, ci sentiamo dopo, ciao anche Antonio, che devo andare a tagliare due melanzane, a dopo. Ehi, ciao, ciao. Sentiamo. È l'altro profeta. Ehi, ogni tanto vi sovramodonate un attimo perché non vi sentite, giustamente. Vi giochiti 9-9-10 sotto. Che arrivano forte. Beh, io non sono a casa, Atto, mi ha chiamato una in PMR, cioè PMR, l'NPD la verità, sul canale 4. Allora dice, mi senti? Cioè, tu sì, gli ho risposto. Dice, tutto a posto, tu sì. Ah, scendi su 7, mi ha detto. Ah, va bene, gli ho detto. Ma arrivava forte, mi sa. Allora dice, mi senti? Vuol dire che ti conosce? Ma non è capo che non l'ho mai sentita, l'ho sentita lei io. Non ci ho parlato di PD, capito? Non mi conosce l'accidente. È lei che ha parlato di PD. Ma poi io ho risposto, intuito, hai capito? Che arriva forte qua. Invece qua... l'ospedale evidentemente cosa ne so su a questo piano del cazzo è o è qualcuno in zona che ti conosce? Non mi conosce a me, io ho sentito il nome uguale al mio, evidentemente c'è qualcuno che si chiama Alice come me, capito? Le piano di sotto, ho preso il risposto io. Scusa, ma tu ti chiami Antonello? Appunto, io mi chiamo Antonello, mi chiamo Alessio. Alessio l'ha chiamato lei. Non ho chiamato mica io. E ho preso il risposto. Mi sembrava in PMR, invece era in LPD. Ok. Ma è la zona Fabiden di Tonino, perché io non lo so se mi sente lui a me. Tonino è a carica, avanti Tonino. Ehi. Io sono da fuori e basta, non so con chi stai parlando. Quanto le bombe? Non arriva qua, c'è più forte la propagazione, QRM. 9-5 qua. Torino arriva a 9-5, questo è lo smitter del 3009. Tanto ogni differenza però. Ma io non sono a casa, no? Ah, non sei a casa, sei al QTH, ho capito, dai. Se no da canica, sai come mi arriva la bomba a me? Altro che 9-5. Ehi, sì. No, qua adesso in confronto è la propagazione è più bassa, capito? Quello smitter dell'altro baracchino non serve a niente. Cioè ti segna 3, 5, 9 più 30. Segna niente, tutto uguale. Sì, ma che non te la avviso che non so che a casa. E Anto, sto sempre cambiando radio, cioè ogni baracchino c'ha lo smitter diverso, io non so mai che pesci prendere, perché dicono come ieri ero così, oggi sono così, se ti riglia, tutti i diversi sono questi smitter. Non mi intendi a me. No, tu dico non ti senti a letto, c'ha QRM, c'ha la propagazione e ti copre a letto. È strano perché da lì dovrebbe sentire. E lui è a carica, c'era di fronte in pratica via l'aria. Va a vedere. A vedere se mi sente ora. Lui lo senti adesso? No. Nulla. Non sono a casa, diglielo che non sono a casa. Scendiamo il VAT. Aspetta, provo io. Torino, se mi senti, io sono con 3 watt utili, 3 watt utili. Tu sei a bomba. La radio è fortissima, 7,95. Sì, cioè, sarebbero 4, ma il filtro passa basso, me ne togli uno di watt, quindi 3 watt utili. Poi vabbè, 50 metri di cavo, quindi ne arriveranno 2. Alessio, Poppo. Dimmi. Ma Antonio non è a casa sua? No, non è a casa sua. Per quello che non arriva. Allora, c'è Marco comunque, Marco già ti sente. Ti prendi un secondo, aspetta, parla così qua. C'ho sempre quell'antenna di plastica, amico, una chiama Claudio, sempre alla Energy, 5 ottavi, ha compiuto 8 anni, perfetta, tutti i radiali, dritta, non c'ha un problema, bella, stagnata, funzionante. Io c'ho invece la massima 5 paralitica, tutto da ricoverare. E questa non ce l'hai più come questa, l'hai data? No, ce l'ho più quella lì, l'ho data. E niente, mi hanno dato, voglio molto piacere questa qua, è stata aggiustata il 4-5 volte, me l'hanno regalata, eppure per carità. Niente, sto usando il TM1000 per uscire leggermente, se no c'è troppo stazionale. Adesso mi arriverà fra poco l'antenna nuova che ho ordinato a voi. Qua c'ho, dunque, ho controllato le stazionarie, c'ho stazionari circa 2 a 26 e 2 e lo stesso a 28 e 2. Quindi 2 MHz con i limiti di banda a 2 di stazionarie, accettabile. 2 MHz già sono buoni, sono 200 canali, che copertura. Comunque di questi canali nella 27 praticamente batteria è qua. Cioè? Non ho capito. Vedete, 26 praticamente il canale è mai bassi. Qua c'è mai 27, ciao. No, ti volevo dire che sì, qua c'ho uno sta a uno praticamente. No, se scendo di canale arrivano le stazionarie a 2 a 26.2 e poi salendo invece un bel di canali a 28.2 arrivano a 2 di stazionarie. Quelli sono i limiti di banda, diciamo, no, dove c'ho 2, però qua c'ho uno sta a uno, non si muove nemmeno, capito? No, io avevo roba di 3 stazionarie, con TM1000 ho portato 1 e 1 ho portato, perfetto. E va bene così. Figa. Antonio, riprendi che bevo. Ecco, poi. No, qua già. Già ho portato in stazionaria. Oh, purtroppo. Non capisco perché non riesco a sentirlo. O c'è un difono, sto pensando. Chi c'è un di polo? Lui no, c'è una 5 ottavi, perché però sta lavorando in maniera non ottimale, ho capito. Eppure tu lì sei in alto, cioè rispetto a me sei molto in alto, è un po' anche pianeggiante, vabbè c'è i palazzi alti un po' che fanno lo schermo, ma all'anima da non sentirlo a sentirlo. Ancora pio proprio, ma mi muovo appena vago, lo sto dicendo, praticamente talmente una posizione talmente negativa che non riesco a sentirlo. Il cazzo, ma facci cosa mi pompatevi. Te l'ho detto tanto, io ho visto la foto, tu lì ci fai un bel plinto, un traliscio a 10 metri, poi ci metti una bella manto va in punta, vedi che coppi tutti. No, dico Mantova, ma può essere una qualsiasi 5 ottavi, non è necessario pillare una Mantova, basta che sia una 5 ottavi ben installata, bella stagnata, isolata in tutti i punti sensibili. Io a questa non gli avrei dato 2 lire mie, io ho detto questa durerà 2-3 anni st'antenna, ma per il prezzo vabbè si ripaga, invece 8 anni ancora non è caduta, resistito a 20 che hanno buttato antenne di tutti i tipi, questa no. E la sta mandando, va! Chi è? Buonasera, c'è troppo correbbe la propagazione, comunque a te ti sento bene. Quando parla Antonio se lo porta dietro. Buonasera a tutti, già vedo più. Buonasera già. E a Gianni. Ciao Gianni, ben entrato. Dai, prendete un po' che ho la gola secca. Ciao, aspetta un attimino. Ma ti mando ecco comunque. E beh già. Allora, non ce ne comprendi nulla, ci sono. C'è propagazione, Antonio se la porta presto. Ciao, fa un po' meglio. Adesso sì. Perché ero giù proprio. Sono in banda laterale, capito? Sono in banda laterale su questo canale. Rompe le scatole. Ho aumentato il segnale adesso. Io. Perché ero a 5 watt. Adesso ne ho messo un po' di più, ne ho caricato 10. Ciao Gianni, buonasera. Eia, sembra che Antonio se le porti dietro quello Garruzzo. Adesso non lo fa più. Gianni, mi senti? Gianni. Già ti sento, ma c'è qualcuno in banda laterale che sta disturbando. I gruppi, Gianni, tedeschi, ci avevamo certi segnaloni che li sentivamo sotto di noi che siamo a Sassari. Ehi, se Antonio si riporta appresso, capito quando parla? Tu no, ma Antonio sì. Quell'altro non ho capito chi è perché ci sono tutti questi splatter e lui neanche da banda laterale. Torino, Buonasera. Buonasera a lei, chi è? Buonasera, qui è la provincia di Matera. La provincia di Matera? Ah, hai sentito? Ma avanti separato. Tu mi hai sentito, vai. Calma, provincia di Matera. arrivava forte, poi parlava te l'era coperto. Poi c'è sceso la verità, è arrivato 9:20 e poi c'è sceso di colpo. Attenzione isola della Sardegna, si ascolta sera. Avanti Matera. Buonasera da Matera, avanti Matera, l'isola sarda ti sta rispondendo. Sì, buonasera isola sarda, solo che c'è un po' di QRM qui di bando, si accavalla la modulazione. Campa Romeo, dai, è la stazione già di doppio room che ti supercordializza, la zona è Sassari, nord Sardegna. Proviamo a cambiare canale, qua non si può durare, è un casino. Allora attenzione Gianni, stazione doppio room, se mi ascolti io vi saluto, vi cordializzo. Fallo passare sull'11 che è libero. Basta sovramodulare le bande laterali, aio manda grazie. Passiamo a canale 11 Matera, se vuoi è libero, non ci sono sfratti. Avanti su quei cambi. Ci siete? Alla grande. Oggi ho visto su Facebook uno di quei mostriciattoli, gli ho scritto portalo a provare, gli ho scritto a Massimiliano. Ma quello uguale a quello che c'ho io, l'805. È enorme era. E quello è l'805, quello ce l'ho anche io. Quello è l'805, quello più piccolo di quella serie lì è il 505, quello da 300 watt. Ma le tocca io. Ma tu a comprare su linea devo di 650 euro, mi 730, dipende. Cazzo. Se lo già pensi che sia un giocattolo, e quello è HF030. Allora, all'istino costava 750 euro. Ok. E sia io che l'amico mio abbiamo pagato 650, ma presto a favore. Chi so già, avevo pure alimentazione un bel mi fa pagisso. Quello va 12-24, se lo puoi fare andare a tutta potenza, devi usarlo a 24 volt, allora siamo intorno agli 850 watt. Se lo usi a 12 ne va intorno a 600, capito? Ma cosa dovrei vivo? Penso proprio di sì, è antenna buona, e tu sei già oltre i 500 watt, ci vuole cavo buono, pile buone, antenna buona, e se no ti sciogli tutto. Ho capito. E così è, cosa vuoi che ti dica? Avanti Marco. Peccato che io ho attaccato linea retta sperando di parlare con Matera e invece niente. Vabbè dai, stacco tutto. Chi c'è rimasto? Il profeta, il Pomponio, chi tutto c'era? Oh, io ho chiamato Gianni, riprendi, lo profeta. Eccomi, che Gianni è troppo generico, magari risponde il doppio, rispondiamo tutti e due assieme. Oh, yeah. Niente, dai, sono qua. No, io ho chiamato anche al doppio room, ma non ha ripreso, è al telefono, non lo so. Vabbè, gli hai risposto un po' così per quella radio. Ma quante watt in AM dovrebbe dare quella radio? Di fabbrica, non sto dicendo modificata, di fabbrica in AM. Io rispondo in base a quello che dico, cosa possiamo rispondere? Sì, io ho un video, anzi non ce l'ho io, se Massimiliano ha un video di quella radio che dà 80 watt in corso, 80 in banda laterale, io l'ho provata a 10 metri, con la T230, in scala 200, modulava a 150, 160 watt, cosa vuol dire? Che non è così, io dico quello che provo. Poi se a lui non gli dà, non lo so, non sono problemi miei, la radio non è la mia, quindi non... come ho già detto mi ritiro, io rispondo in base perché gli ho fatto una domanda, ho detto sì con la potenza massima, sì 30 watt, ma 30 watt non è la potenza massima, perlomeno. Quando l'ho provata io era così, poi non lo so, comunque non sono problemi miei, basta, finiti i giochi, finiti i discorsi. Ma Claudio, stai dicendo non lasciare le cavolate, guardati WhatsApp, che mandami un ciao, poi ti faccio leggere quanti da parte da. 100 watt, gli dai banda laterale, leggi bene. Gianni, cosa vuoi ti dica io? Io banda laterale con la direttiva, dai monobanda per i 10 metri e ci ha filmato Massimiliano, non lo so io se ce l'ha ancora, non ti sto dicendo male, dava quasi 160 watt. watt 230. La potenza minima era di 30 watt, la massima era più o meno 70-80 watt già. Non ti sto raccontando male. Poi non lo so, che cazzo, se ne so già io. Io quello che ho fatto e quello che ho provato ti sto dicendo, non è che ti sto raccontando bugie. Allora ho mandato quello che c'è su internet a tutti quanti, così faccio vedere che non è quello che stai dicendo. 30 watt di Dyna M e 100 in banda laterale, c'è scritto così, Cobra, ho messo il tipo del Cobra 200GX eccetera eccetera, e mi dà quello, punto. Poi tu insisti sempre sulla stessa cosa, stai punzecchiando, adesso basta. Ma già, intanto rilassati quando parli con me che nessuno ti sta punzecchiando. Io ti ho fatto una domanda, tu mi hai dato una risposta, io ti ho risposto, punto. Poi 30 watt ti dà, e prenditi 30 watt, a me me ne dava 80. Se poi mi vuoi credere se mi credi, se no fai come ti dimbiaggi. Cosa cazzo sto punzecchiando? Rilassati, non sollevare la voce che nessuno ti sta punzecchiando. Ma no, sei dall'altro giorno con questa storia rompendo le scatole, vabbè, comunque continuate, ciao. Cazzo proprio sembra maloccio, ciu rompendo le scatole. Cazzo, io ti dico quello che provo, se a me mi danno la radio la uso e ti dico da quei watt, con la mia strumentazione da quei watt, se a te non te li dà, non è la mia la radio, cosa me ne frega a me? Se fosse stata la mia avrei capito perché non li dà, però se io ti dico che li dà quei watt e li ha dati, se Massimiliano c'ha il video, glielo puoi chiedere se ce l'ha ancora, è inutile che fai, che dici cose che non devi dire, stai punzecchiando, cosa piace me la futta a me punzecchiare, a chi aveva la radio la mia. Non vi scaldate, io vorrei sapere solo i watt, come li avete misurati, in AVG o pico pico pico. Con lo strumento che c'è Massimiliano, quello della Raiva, P&P, ma stai scherzando? E li dava tutti, ma poi l'ho provato anch'io a casa con la monobanda di 10 metri, in 10 metri a 28.500, mi pare 28.400, e dava 140 modulati, 150, ma cos'è se non mi ricordo, comunque c'avevo la T230, quello della Kenwood sempre, capito lo strumento, quindi. Marco, guarda che ti ho mandato un link. Aspetta che non so dove sia il telefono. No, però Claudio, quando misuri la potenza modulata in M si misura in AVG, non in pico pico, ti dico perché, perché ti quadruplica la lettura, cioè se io ne ho tipo Gianni 30-40 in AM, 4x4 16, te ne legge 160 pico picco, ma in AVG reali, reali sono 40, nel suo caso 30, magari te la dà un po' più bassa. Può essere quello l'inghippo, io non c'avevo lo strumento mio, cioè il coso l'ha fatto Massimiliano, lui l'ha provato così, quindi può essere quello l'inghippo. P&P ne dava 70-80, ma in AVG ne dava 30-40, è la stessa cosa in banda laterale, ma io siccome non sono cieco non devo infarsi di nessuno, perché ripeto, a me poco mi interessa, è una radio bellissima che ho provato e gliel'ho detto anche l'altra volta. Beh, evidentemente è così, P&P, non è in AVG, non lo so, non era mio lo strumento, capito? No, ma mi ha ricordato un episodio. Allora, io ho avuto l'Omega Force, l'avevo preso nuovo, no? E in AM, proprio dati di fabbrica, dava X watt in AM modulati, misurati ovviamente in AVG. E Sandro all'epoca mi diceva, non è possibile, deve darne molti di più. Poi insomma, quando ho capito, lui le misurava in P&P, praticamente leggendoli in pico picco, mi quadruplica la lettura, ma non è una lettura reale, è per illudersi che ne dia così. Infatti in realtà erano molti molti meno, capito? È tutto lì, dai, capito? Spero già che apro il messaggio, il link, là. Però sono i dati della casa. Con questa storia P&P, AVG, che cazzo non so. Vabbè, comunque chiuso il discorso, no, non mi interessa più niente. Ok, avanti, Gianni Lubrefetta. Eccomi. Io sono il più piccolo, là. Sono il piccolino al centro storico. E non sei così piccolino, arrivi più di 9 qua. E questo sì, allora modello C, vabbè quello lì, 200 GTL DX, F elettronica che lo vendeva a caro prezzo, mi dice 30 watt RF AM FM, 100 watt SSB. Certo, se tu questi 30 me li misuri in picco picco, cosa da non fare, 3x4 12, te ne segna 120, ma non sono reali, ecco cosa li inghippo, Claudio. Cosa vuol dire? Io quello ho visto, quello gli ho sempre detto a Gianni, ma anche Massimiliano dice sempre la stessa cosa, capito? Evidentemente lui le misura così. Io quando l'ho portato a casa l'ho provato solo e mandato a terrare e basta, 10 metri e mi dava più di 100 watt, però c'avevo la T230, capito, della Kenwood, quindi penso che fossero reali. Vabbè dai, io vi saluto, ce la risentiamo, ciao a tutti. Ciao Antonio. Comunque, come dico io, va, non c'è problema, perché l'ho letto su internet tutte le caratteristiche ed è così. Se tu lo misuri in PP è normale, come dice Marco, che te lo dà di più. Infatti Massimiliano lo misurava in PP. Già, io chiedo scusa, io quello che ho visto e ho detto, capito? Adesso poi riflettendo, come ha detto Marco, lui la misurazione le fa sempre in PP e io quello ho visto, quello ti ho detto. Se poi la realtà è quella, sai, pur certo che la radio è a posto di tutto, perché è una bellissima radio, l'ho provata, quindi io pensavo avesse la potenza che aveva quella di Sandro, invece quella è un altro modello. Vabbè, abbiamo chiarito, tutto a posto. Naturalmente, come tutte le radio, questo è il valore di fabbrica, però anche quella si può estremizzare, cioè c'è gente che quella gli ha strizzato il finale, portandolo al limite, ti dà più watt, però stai ammazzando il finale, ci sono anche quelle modifiche. Quello di fabbrica così mi dice, poi non so. E così era per l'Omega Force. Ha detto, ma non è possibile, ho detto guarda in AM, e lo richiama anche a casa, in AM, ne dà così. Poi questo trucchetto del picco picco, purtroppo lo fanno molte case pur di vendere. Per esempio il presidente, quello che è solo MFM, sa cosa ti andava a dire? Allora in FM ha 50 watt circa, no? E dice in AM sono, dice, 50 watt PEP picco picco, in realtà ne ha 13 in AM, 13 in AVG, però se metti la lettura picco picco, 13 per 4 fa il conto, arriva circa 50, però è una lettura fasulla, però anche President in malafede, vabbè, ti va a dire che ne dà 50 in AM, la gente si autoconvince, se lo compra, poi va a misurare col normale rosmetro e ne vedi 13, capito? E come questa in AM dalla casa è data per 40 watt e invece ne era 25, in AM, in FM, ma dalla terra era 100, capito? Tutto qua, infatti adesso ho messo a 25 watt e 30 watt, cioè va bene lo stesso. Allora, nel 2009, io, quello di Mario Babbo Natale, che è il Superstar 7000, così è, Marco, correggimi, il 7000... Superstar 7000 DX. Superstar 7000 DX, quello da 50 watt in AM. AVG, cioè normali, senza misurare il picco. Sai chi aveva fatto un video dedicato a questa storia? Francesco Luna Rossa, quello che parla con noi ogni tanto, propagazione. Ha detto, dice, io quando faccio le misurazioni PEP lo faccio perché lo fanno un po' tutti, però sappiate che in AM la dovete misurare in AVG, perché PEP è solo, ti dà l'illusione che ne dia di più, ma poi basta guardare i datasheet delle schede di finali e vedi che non potrebbe darle in AM così tanti, capito? E così per i lineari, molti li misurano anche picco picco in AM, credi che ne dia 4 volte tanto quando non li può dare, proprio fisicamente non li può dare. Vabbè, comunque non via di latte sempre per queste fesserie. Subito partite in quarta voi. Ma veramente Gianni che parte in quarta, a me poco mi interessa, io ripeto, ribadisco ciò che è vero. Poi adesso mi hai fatto un po' riflettere e giustamente le misurazioni che sono state fatte con lo strumento di io non ne ho di strumenti PEP, io sono strumenti professionali della Kenwood e della Icom perché ho le linee complete, quindi non ho strumenti così come avete voi per la 27, per perciò non posso misurare PEP. A me li dà tutti in AVG FAT, quindi capito, in banda laterale in AVG con la T230 mi dava 140 watt modulati. Evidentemente come spingeva era così, ma è normale, va benissimo. Poi il resto non lo so. Vabbè, chiuso il discorso, va bene così, ok. Il segnale PEP lo segna dal microfono a secondo della precisazione. Buonasera, 9 più 15 a te, 9 18 PEP. Marco 9 più 25, PEP 28, Gianni 9 e 35. Questi sono i segnali che in analogico, analogico, sai, sì, Marco. Quando ti arrivo io 9 e 10, guarda bene che è impossibile, ti sto arrivando 9 e 10. Ho detto 9 e 15, PEP 9 e 18, 9 e 18 in PEP modulati, come per essere chiari. PEP, il segnale PEP lo stabilisce al microfono, se è un microfono normale ha un'oscillazione, se è un microfono apposecato ne ha un'altra e così via. Ma comunque sono segnali relativi qui perché non hanno più molta importanza. Marco 9 più 25, Gianni 9 più 35. No, adesso 3 watt, guarda adesso Giulio. Prova. No, adesso sei intorno ai 9.10, 9.15 più o meno. Adesso li hai abbassati, ma poc'anzi eri 9 più 25. Vabbè, Gianni è attaccato a te, poi forse arrivi 9.35. Vabbè, non me lo so se vuol dire PEP e Giulio, non è che... Però io ti ripeto, io strumenti e misurazioni in PEP non li ho mai fatto, non le faccio perché non ne ho. Però di solito chiuso i baracchini così, col microfono amplificato e con le modifiche, fa sempre le cose PEP, tutto lì. Sì, ma non è che ci vuole lo strumento per misurare il segnale PEP. PEP è quando tu ad esempio fai un fischio e l'oscillazione anche nel rosmetro, nel wattimetro, aumenta l'oscillazione perché hai fatto un fischio e così via. Quello è il segnale PEP, che poi non ha una grandissima rilevanza se vogliamo. Quello che conta è la portante fissa. Infatti io ti sto dicendo, io misuro sempre con la portante fissa, non ne ho di strumenti che fanno, non si muovono i miei aghi rimangono fermi. Comunque ci sono degli strumenti tipo quelli della Driva che hanno sia la VG e sia il PEP, la misurazione, hanno due posizioni, capito? Vabbè, comunque, dai. Ottimo per la truppa, va bene così, il tuo segnale qua è 9, quasi 9 più 5 e va bene Giulio. Ok, avanti Gianni, doppio room, fai girare. Ciao Giulio, l'hai sentito? Ma è quello, cavolo, l'ho trovato un altro giorno io, che praticamente l'apparecchio in AM da 30 watt e in SSP supera i 100, anche di più, parlando da più di 100. Però è così perché erano tre finali praticamente in banda laterale. C'è anche scritto, fatelo mandare da qualcuno che l'ho mandato per farglielo leggere. E così lo dice anche tu. No, ma io mi fido perfettamente, non è un problema per me Gianni. È che appunto quello che ha detto Marco in riflessione è così, riflettendo così, perché io ho visto sempre le misurazioni in PEP con quella radio, capito? Quindi sicuramente è quello il problema. Se così hai detto, così è, basta, non è che si discute. Avanti Rubrofetta. Eia, mi sono assentato un attimino, mi sono perso il filo del discorso che stavo messaggiando con un amico e niente, non ho, sono, come si dice, mi sono perso il filo del discorso. Non ti ha perso niente Gianni, tranquillo, hai fatto bene che stavi sciacquando. Mi avevo provato con l'AIVA a misurarlo in picco questo, no? 4 watt in AM modulati normalmente, metto picco e ne leggo 16, no? E uno comincia, c'ho 16 watt effettivi, ma manco per le balle, è un'illusione, ecco perché invece il picco va bene per misurare correttamente in SSB perché con i dosmetri normali, visto come parli, non fa in tempo a salire, la lancetta già sta scendendo. Addirittura con lei lascia il blocco del picco, cioè del picco massimo, ti blocca proprio il picco massimo in modo da leggere qual è la potenza manaterale massima possibile. Capito, parlando o fischiando. Sì, ma io sono convinto di quello che dico, perché io da quando l'ho acquistato questo apparecchio dava 30 watt in AM e più di 100 watt in banda laterale. Sono andato a controllare su internet e mi dava quello, quindi ho detto è giusto, perché io sono un po' Sant'Tommaso, se non vedo non credo. Comunque già anch'io credevo, in origine credevo che fosse ancora più potente quello già di serie, tant'è che i Magnum l'avevano superato, no? Il 980, il 175. No, il Magnum ne dà 20 in AM, il Magnum non ne dà 30, questo qui ne dà 30 con picchi a 40. Ma anche il più potente dei Magnum, tu li hai provati tutti, era il 185, il 980. Sì, sì, di tutti i Magnum è sempre più potente. Guarda che tra il 9, l'S9 e l'S980 è come è fatto, non cambia nulla. Sono uguali, danno 20 watt in AM e non lo so, ma da laterale non lo so, perché non l'ho mai misurato, dico la verità. Però 20 watt in AM è sicuro. Ah, ciao Giulio, ben entrato. Qua ci siamo persi qualche stazione tra passare sull'11 eccetera, ma c'erano questi tedeschi che ci stavano ammazzando di brutto in banda laterale. E gli piace il 10 ai tedeschi, non c'è niente da fare. Poi stanno in FM o in banda laterale. Allora, non te le scatole a noi. Vai Giulio. Sono contento, con un watt che era tipo da Claudio a 15 km di distanza più o meno da dove sono io.